Giovedì 17 marzo alle ore 18 presso la libreria Punto Input ci sarà la presentazione del saggio L'intollerabile presente, l'urgenza della rivoluzione. Siamo qui per parlarne proprio con l'autore Maurizio Lazzarato. Buongiorno Maurizio e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a lei e a tutti quanti. Allora Maurizio, direi che già il saggio parte con un titolo molto preciso ma anche un po' provocatorio. Si parla appunto di rivoluzione in un presente che però è diventato appunto intollerabile, a questa rivoluzione. Volevo chiedere proprio a lei, Maurizio, di raccontarci un po' le tematiche che vengono affrontate in questo libro e se effettivamente ha voluto provocare un po' con questo titolo. Beh, effettivamente il titolo è un po' provocatorio perché sembra che non ci siano le condizioni attuali per una rivoluzione. Ma da un po' di tempo sto lavorando su un doppio concetto che è quello di guerra e di rivoluzione. La guerra sta tornando, forme nuove di fascismo stanno tornando, guarda, penso che ci siano le possibilità anche, non immediate, per ridiscutere almeno del concetto di rivoluzione. Cioè non è che volessi dire che la rivoluzione è qui all'ordine del giorno, ma sono due concetti, sia quello di guerra sia quello di rivoluzione, che non sono stati abbandonati dal pensiero critico e invece mi sembra che stiano diventando, sono tornati al centro un po' della discussione, almeno quello della guerra. E quindi ho cercato di elaborare, perché precedentemente avevo fatto un libro sulla guerra, Guerra al plurale capitale, che non è stato tradotto in italiano, è stato tradotto in diverse lingue straniere ma non in italiano. Questa sarebbe la seconda parte, quindi bisognerebbe leggere insieme, però siccome c'è solo la traduzione del secondo, mi concentro un po' su questo libro. Lei nella prima parte del libro, diciamo, parla del passaggio tra lotta di classe a lotte di classe. Che cosa intende per questo termine al plurale, appunto? Beh, io penso che il problema della rivoluzione a partire dagli anni 60 sia stato il problema della molteplicità. Cioè, quello che si affermava, soprattutto intorno al 68, gli anni 70, era una molteplicità di movimenti politici, di movimenti sociali. Non erano più riduttibili alla copia classica del movimento operaio, classe operaia capitale. Allora, questa molteplicità però è stata interpretata in termini non classisti. Cioè, se prendiamo, non so, il concetto di minoranze in Deleuze Guattari o in Foucault con la biopolitica, i concetti sono quelli di popolazione e individui. Cioè, c'è la molteplicità, non ci sono più le classi. L'operazione che ho fatto io è perché io penso che questa molteplicità si sviluppi dentro il capitalismo ancora, è quella di cercare di ridefinire questa molteplicità come rapporti di classe. Rapporto uomo-donna, per esempio, considerarlo come rapporto tra classi. Questo non l'ho inventato io, il femminismo materialista francese che l'aveva indicato già all'inizio degli anni 70, che mi sembra un'ottima indicazione, e nello stesso tempo il rapporto bianchi razzializzati come un rapporto di classe, e quindi accettare la molteplicità ma definirla in termini di classe. Per questo che dico, quello che non si è riusciti a fare è il passaggio dalla lotta di classe capitale lavoro a questa molteplicità di lotte di classe, che in realtà sono là, non sono state inventate dal 68, sono là dall'inizio del capitalismo. Il capitalismo non esiste senza lo sfruttamento della donna e senza lo sfruttamento degli schiavi. Quindi questo lavoro gratuito, che non è mai stato preso in considerazione, secondo me andava considerato a fianco del lavoro classico operaio. Quindi il libro si struttura tutto intorno all'indagine di queste nuove classi, di questo tipo di lavoro che non è solo il lavoro operaio classico. Come ho detto inizio intervista, questo giovedì, domani sarà proprio qui a Bologna la libreria Punto Input a presentare il libro, quindi le volevo chiedere come avverrà la presentazione, che temi toccherà, ecco. Ma penso che si svilupperà intorno alle tematiche del libro, cioè quello di cui abbiamo già discusso, per esempio questa della molteplicità delle classi, prima cosa. Secondo punto, probabilmente questo sulla guerra, perché io penso che il capitalismo non possa essere definito indipendentemente dalla guerra. La guerra è un suo elemento strutturale, come il razzismo è un suo elemento strutturale, come il sessismo è un altro elemento strutturale. Cioè, modificare leggermente il concetto di capitale per introdurre queste cose che in realtà sono là da sempre. Beh, adesso, guarda, con la guerra in Ucraina si vede in maniera abbastanza evidente che il capitalismo non è indipendente dalla guerra, cioè ce ne eravamo dimenticati solo perché dagli anni, dopo la caduta del muro del Berlino, le guerre sono state fatte non in Europa. Ce ne accorgiamo solo quando vengono in Europa, ma gli americani hanno fatto 17 guerre dall'88 a oggi, quindi voilà, la guerra non è mai stata esterna, come il problema del razzismo e il problema del assassino. Cioè, non si può pensare al capitale senza questa organizzazione razziale, senza questa organizzazione sessuale dei rapporti sociali. Questi sono assolutamente fondamentali, per cui penso che fondamentalmente si discuterà intorno a queste cose, che poi queste possono dare adito ad una rivoluzione. Per il momento è un po' è un po' provocatorio, come dicevamo all'inizio. Bene, Maurizio, io la ringrazio veramente. Ricordo appunto ancora una volta che domani sarà proprio qui a Bologna, alla libreria.input, a presentare il suo ultimo saggio. Grazie ancora. Grazie a lei.